9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buona giornata. Allora, in questo martedì cominciamolo con una notizia che dà aggiornamento di un tema di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa e che non sarà poi il tema della giornata, però per capirci in questo paese che rischia di finire, come si vede di nuovo, nel vortice dell'eurodebito, attenzione perché poi ci sono degli sviluppi, delle decisioni che la politica prende e che possono potentemente contribuire poi a pregiudicare nuovamente il giudizio che i mercati danno dell'Italia. Di cosa sto parlando? Sto parlando di una notizia che viene dalla Sicilia, perché assunti a tempo indeterminato in 4.800 alla regione, addio precari del 1° dicembre, ce ne avevamo occupati, vi ricordate, qualche mese fa, nonché presto l'assunzione a tempo determinato oramai decisa anche per il totale dei 22.500 precari che lavorano nei 390 comuni siciliani, quindi in totale più di 27.000 persone assunte. 27.000 persone sono più del totale degli operai dell'intera Fiat Auto in Italia. In Sicilia abbiamo deciso che possiamo permetterci un'intera Fiat Auto pubblica a spesa del contribuente. Bella giornata, eh? Queste sono le notizie che mi fanno veramente perplimere, cioè mi fanno grattare la zucca e mi fanno pensare se in questo paese sia io tra i matti. È possibilissimo, diciamo che esiste un'ipotesi molto ragionevolmente alta a questo punto, visto la quantità di queste notizie che mi provocano, di questi sussulti, o sia pure invece il metro di giudizio che manca è di qualcun altro, della politica. Naturalmente capisco il problema del tempo determinato, della precarizzazione delle famiglie e la tragedia di tutto ciò che per i familiari di questi 27.000 può significare il fatto di essere in fila da tempo perché lo Stato li assume. Però è proprio questo il concetto sbagliato: essere sempre in fila perché lo Stato ti assume, cioè il contribuente. Sapete perfettamente che la Regione Sicilia ha un numero di dipendenti pari a 3.8 volte a parità di popolazione rispetto a quelli del Veneto. Sapete benissimo che non credo che questi 27.000 in più, oltre ai 22.000 che già c'erano in regione, servano ad alzare la produttività. Non ci credo, perché i numeri dicono che assolutamente può essere vera solo una cosa, cioè l'esatto contrario. E di conseguenza penso che un paese in cui queste sono le notizie che troviamo ancora sui giornali, è un paese rispetto al quale i signori contribuenti, i signori cittadini, comunque votino, comunque la pensino, in qualunque regione siano residenti, dovrebbero veramente pensare: no, questa notizia è quella di fronte alla quale dico che basta. Questa è una notizia di fronte alla quale inizio a pensare che quello che lo Stato mi chiede non può essere giusto, perché non è proporzionato alla gravità dei colpi che decisioni come queste, assumere più di tutta la Fiat a spese del contribuente, possano avere una qualunque giustificazione. Si chiama clientela la giustificazione, si chiama volontà della politica di far appello al peggio del nostro paese, alla volontà di avere un posto fisso, in cambio una certezza modesta, poco pagata ma per tutta la vita, con la certezza di avere qualcuno in cambio da ringraziare per avertelo dato. Ecco, questa è esattamente, penso, la notizia che ho ritenuto di darvi per farvi, spero, un pochino arrabbiare a inizio di trasmissione. E dopodiché andiamo invece a occuparci del tema di oggi, perché siccome non è giusto ovviamente parlare solo di cose negative, allora ho avuto la scorsa settimana un'esperienza invece straordinariamente positiva, e di qui voglio partire. Siccome mi occupo da anni di tentare di capire, di unire il tema della ricerca nelle università, no, non parliamo della riforma Gelmini che oggi aspettiamo di vedere varata alla Camera perché poi torni al Senato. Sto parlando della ricerca che all'interno dell'università nasce su idee avanzate e che poi si deve porre il problema di passare dai laboratori universitari o delle start-up universitarie in cui gli atenei selezionano le migliori idee per avviarle poi all'incubazione di nuova impresa, e si devono poi porre il problema dopo le start-up di riuscire a incrociare sul mercato capitali in grado di alimentare queste idee, e si devono poi porre il problema di passare alla fase successiva, che è quella dei cosiddetti seed, dei semi, all'early stage, che è i primi passi perché un'idea diventi, da idea di prodotto o di processo, diventi un'impresa vera, per poi avviarsi a essere un'impresa vera da tutti i punti di vista. Ed è un passaggio difficile, perché nel nostro paese i fondi istituzionali che sono chiamati a fare questo mestiere, i fondi di venture capital specializzati in questa selezione di progetti dalla ricerca universitaria, sì, esistono, ma tradizionalmente non riescono a essere molto attivi in questo tipo di selezione di idee, che invece in altri paesi come gli Stati Uniti è uno dei motori moltiplicatori della crisi. Pensate che nel nostro paese i fondi di venture capital sono più di 120, quelli iscritti all'AIFI, l'associazione di settore, dichiarano di avere più di 7 miliardi di euro di free capital, cioè di capitale inutilizzato, perché non riescono a trovare buone idee. E mi è capitato quindi lo scorso venerdì di partecipare a Padova a questa sesta iniziativa dell'Intesa San Paolo Startup Initiative, che si collegava con una manifestazione analoga animata da due filiere produttive, da due distretti, quello delle nanotecnologie, Nanotech, sviluppato e fortissimo in Veneto, insieme al distretto della tecnica ingegneristica per i polimeri, che invece è attivo in Campania. E questi tre soggetti danno origine a queste manifestazioni, che ha unito le proprie forze e che attribuisce proprio con una selezione di startup a cui partecipano idee di impresa sia italiane che da altri paesi europei, ce n'erano oltre 30 tra italiani ed altri paesi europei, attribuiscono poi 300.000 euro al miglior progetto. 300.000 euro sono, nell'ambito di questo tipo di nel range di questo tipo di selezione, una ottima assegnazione di capitale, perché io ne conosco solo di inferiori in questo ambito. E oltretutto stavamo parlando insieme a due filiere tra le più specializzate nel nostro paese, che intorno ai distretti e al concetto di rete, non solo di addensamento territoriale per vincere le esternalità negative, hanno sviluppato in questi anni straordinari avanzamenti della tecnologia. Ma la cosa particolare è che questa manifestazione mi ha consentito di conoscere, oltre a conoscere meglio naturalmente, coloro che lavorano in Nanotech nel distretto dei polimeri, per intesa c'era l'amministratore delegato Corrado Passera, quindi mi ha consentito anche di incrociare una serie di persone che secondo me sono molto interessanti, proprio perché sono in grado di spiegarci come ha funzionato la loro idea, malgrado quali ostacoli siano riusciti a realizzarle. Quindi in questa prima parte della trasmissione e nel proseguo ve ne presento un pochino, perché penso che sia veramente molto, molto interessante sentire direttamente da loro come è possibile nel nostro paese superare queste difficoltà, che tradizionalmente siamo abituati a pensare invece essere ostacoli pressoché insormontabili. Allora, in questa prima parte della trasmissione abbiamo con noi Margherita Morpurgo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è il presidente di Ananas Nanotech, e poi abbiamo Nicola Trevisan, che appunto è l'amministratore delegato di Veneto Nanotech. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, cominciamo da Margherita. Margherita Morpurgo è una ricercatrice di biotecnologia all'Università di Padova. E poi come succede che questa idea di società, questa Ananas Nanotech, che vince l'edizione di questa selezione nel 2007, tre anni fa, diventa una vera impresa? Ci spiega meglio innanzitutto che scoperta era, come l'ha fatta, e poi come ha avuto l'idea di farla diventare da scoperta impresa, Margherita? Sì, innanzitutto grazie per l'opportunità, insomma, per questa occasione che abbiamo di parlare anche di fronte a una platea più grande. La scoperta alla base della nascita di Ananas Nanotech è stata una scoperta ovviamente per caso, come tutte le scoperte secondo me interessanti nascono tutte per caso, da retropensieri o da scoperte diciamo casuali. È nata mentre ero negli Stati Uniti, mentre stavo facendo tutt'altro, ed è nata diciamo la scoperta di un'interazione che una proteina A che viene usata in diagnostica, che poteva portare a dei miglioramenti nella performance della stessa proteina nella diagnostica. Non vado nel dettaglio, ma in quel momento io ero all'estero, ero lì che pensavo se rientrare o non rientrare in Italia, avevo anche già un posto in Italia come ricercatrice E insomma, alla fine ho deciso di rientrare in Italia per tutta una serie di motivi, e questo mi ha dato dei vantaggi e degli svantaggi. Degli svantaggi perché non avevamo soldi per portare avanti la ricerca, un vantaggio perché, avendo il posto fisso tanto denigrato, avevo tutto il tempo che volevo, tenendo nascosta, se vogliamo, la scoperta, però avevo tutto il tempo per poter costruire quella che poi è diventata l'idea e poi la realtà di Ananas Nanotech, cercando le opportunità giuste e aspettando che il territorio fosse anche pronto. Quindi Ananas poi è nata da una serie di coincidenze, diciamo che l'idea, il risultato di questa ricerca era immediato all'applicazione, cioè era evidente. Io lavoro in ambito farmaceutico, quindi non in ambito biotecnologico, quindi una ricerca che è sempre molto legata all'applicazione. E quindi le alternative erano due: o affidarsi a un'azienda farmaceutica oppure che supportasse il trasferimento dalla teoria alla pratica, diciamo, oppure farlo da sé. Diciamo che l'Italia non è, oltre a non essere un posto dove sia facile vivere, dove sia facile innovare, non è neanche un posto dove c'è un buon, dove le aziende sono molto ricettive dal punto di vista dell'innovazione. E quindi, insomma, alla fine abbiamo sfruttato ciò che il territorio stava creando per noi. Diciamo che l'Università di Padova si è attivata insieme a tante altre università negli ultimi anni nel cercare di promuovere l'innovazione, il trasferimento tecnologico, e abbiamo avuto la fortuna di entrare in questa serie di eventi o di diciamo lo Startup, al Nano Challenge, il distretto tecnologico delle nanotecnologie. Siamo entrati in tutta una serie di eventi che venivano organizzati proprio per stimolare questo tipo di trasferimento, e abbiamo avuto la fortuna di essere stati ascoltati. Forse l'idea era anche buona, o eravamo un team molto motivato, o siamo un team molto motivato, e questo ha dato sicuramente una spinta in più. Insomma, ci vuole molta molta motivazione per fare queste cose. Lei dice ci siamo trovati alla fine in questa filiera di eventi tra le startup universitarie, le manifestazioni fatte organizzate in Nanotech, eccetera. Ma in realtà a rappresentare il differenziale, la cosa che ha consentito all'idea di diventare poi l'impresa che adesso ha bisogno di altro capitale per crescere, ma insomma è diventata un'impresa, che cosa è stato? È stato il fatto che l'università nella ricerca funzionasse meglio a Padova? È stato il fatto che ci fossero degli imprenditori nelle nanotecnologie che avessero capito come si va a guardare nell'università? Cioè, quali di questi punti è quello che poi fa funzionare al meglio e fa diventare lì le idee imprese? Allora, sono un po' di tutto in realtà. Sicuramente quello che è stato l'elemento determinante, almeno per quanto mi riguarda, è stata la possibilità di unire una forte motivazione scientifica che nasceva dai laboratori universitari a delle competenze in ambito di diciamo finanziario. Pronto? Sì, siamo qua. Sì, in ambito finanziario, o quantomeno di capacità di fare piani di impresa, che è stata nella persona che ha di fatto il nostro CFO adesso, Davide Merlin, che è unito al nostro team per puro caso, tra virgolette, nell'ambito della Startup Initiative, dell'iniziativa Startup Veneto. E questo lui ha portato delle competenze che noi scienziati non abbiamo e che in università si incontrano poco. Intendo dire, noi scienziati non abbiamo né per formazione né perché ci viene mai posto il problema, la capacità di tradurre in un piano d'impresa quello che sono le nostre, quanto costa trapassare dalla ricerca a un prodotto sul mercato. Sono cose che noi non sappiamo fare e che abbiamo imparato a fare grazie a questo ingegnere gestionale estremamente capace, molto giovane, veramente brillante, che ci ha accompagnati, che poi è diventato nostro socio e ci ha dato quelle competenze che non avevamo. Pronto? Sì, siamo qua. Ecco. E quindi, insomma, diciamo che questo è stato quindi la cosa iniziale. Quindi, secondo me, questo è un elemento mancante nella nostra formazione di scienziati, nella nostra università, che è molto settoriale e che non genera punti di incontro, ma che invece iniziative come queste generano pian piano la possibilità di conoscersi e di creare qualcosa di nuovo. Dopodiché poi potrei avere tante altre cose da dire, ma questo mi è sembrato l'elemento, diciamo, fondamentale, l'anello. E infine l'ultima cosa, ma quanto conta nel fatto che poi l'idea è diventata la vostra impresa, quanto è contato il fatto di essere riusciti a realizzare anche triangolazioni internazionali, diciamo, nella ricerca che era all'origine? Triangolazioni internazionali relativamente ananas specificamente in questo momento non ce ne sono state. C'è stata sicuramente una forte esperienza mia internazionale, che ho assimilato nel passato molte di queste cose che ho visto, nel senso che per esempio la prima volta che sono stata in America, ancora nel 91, io ho visto partire una startup. Sono stato in un laboratorio universitario nel quale il docente stava facendo partire una startup e alcune delle cose che ho fatto in quel periodo sono state poi vendute come prodotti della startup. Ho poi lavorato in un'altra, quando sono andata in Israele, quando sono rientrata in Italia dopo Israele la prima volta, sono stata chiamata a lavorare in una startup che era stata gestita da un israeliano, tra l'altro, quindi mi aveva trovato lì al Weizmann e mi aveva assunta per essere responsabile del suo laboratorio. Quindi avevo vissuto delle situazioni di precarietà, tra virgolette, ma molto dinamiche, in maniera attiva a livello nazionale e internazionale, e questo mi ha sicuramente dato un esempio importante. Ecco, io penso che questi esempi, se nascono in Italia, come stanno nascendo, sicuramente saranno dei motori o delle spinte per altri giovani, insomma, anche qua nel Veneto sicuramente la nostra esperienza sta generando come una palla di neve altre situazioni, altri pensieri, altre persone che si muovono, anche occasioni didattiche tipo il master per le biotecnologie d'impresa che sta svolgendo al CUO a Vicenza, che è stato dedicato proprio a insegnare rudimenti di business a scienziati in uscita dall'università. Trevisan, una domanda obbligata ovviamente, come in tutto questo Nanotech nasce collegata a un ambiente di questo tipo, decide di continuare a selezionarlo, a propagarlo, ad alimentarlo, perché è un pochino il brodo di coltura attraverso il quale l'idea stessa di questa filiera avanzata trova giustificazione, trova più forza nel tempo. Insomma, negli anni da che avete messo in piedi Veneto Nanotech, il distretto italiano per la nanotecnologia, come avete continuato nel tentativo di coltivare le idee dall'università e farla diventare impresa? Ma noi siamo nati nel 2004 e dal 2005 abbiamo iniziato questa iniziativa, perché sin dall'inizio abbiamo pensato che fosse importante non soltanto introdurre le nanotecnologie nelle imprese esistenti, ma anche stimolare la nascita, la creazione di nuove imprenditorialità nel settore delle nanotecnologie. E quindi praticamente sin da subito, e quindi dal 2005, siamo partiti con questa iniziativa, che all'epoca era certamente molto nuova, nel senso che non c'erano altre se non negli Stati Uniti un'esperienza analoga, dalla quale devo dire abbiamo copiato il modello, poi adattandolo alla nostra realtà, ma a quel tempo era un po' un terreno, soprattutto per l'Italia, con poca tradizione ed esperienza nel venture capital, e in particolare sul seed capital, quindi nel finanziamento nella fase iniziale di avvio delle startup, è stata sicuramente una grande scommessa, ma a distanza di 6 anni devo dire che qualche risultato l'abbiamo in qualche modo portato. E nel giudicare, se dovesse, per la sua esperienza manageriale in termini comparati, in questi anni c'è stato un qualche segnale di miglioramento, di avanzo? Cioè, le ricerche sono l'idea di prodotto o di processo che poi fanno germinare in impresa in abbozzo, quantomeno. Hanno secondo lei qualche segnale che fa pensare che nel contesto dei laboratori dell'università italiana ci sono dei segnali apprezzabili, tali per cui c'è davvero l'idea di ciò di cui un'impresa deve essere fatta, dei segmenti e dei settori in cui c'è bisogno di rafforzare attraverso il rafforzamento della ricerca, l'innovazione, le classi dimensionali dell'impresa? Oppure in realtà, come spesso pensano molti ragazzi che vogliono prendere materie scientifiche, ma con l'idea un po' romantica che lo scienziato sia l'inventore delle discontinuità, il più delle idee nascono casualmente? Ma in realtà devo dire che sin dall'inizio, in quella che è stata la nostra esperienza, abbiamo sempre visto delle idee molto interessanti provenire dal mondo universitario italiano, in questo caso parliamo del sistema universitario italiano. La difficoltà probabilmente dei nostri ricercatori è quella di pensare in un'ottica imprenditoriale, cioè dell'uso da farne dei risultati della ricerca, cosa che in altri paesi, soprattutto di tradizione anglosassone, questo è già in qualche modo insito nel loro modo di pensare. E poi probabilmente un altro aspetto che in qualche modo ho visto crescere in questi 6 anni è anche una capacità di interrelazione tra ricercatori e, come accennava anche poco fa Margherita Morpurgo, l'avvicinamento con altri colleghi di altre discipline, magari economiche, finanza, manageriali, che potessero in qualche modo essere di supporto e poter aiutare dei ricercatori a far nascere le loro idee sostanzialmente, o comunque a trasformarle in idee di business. Questo probabilmente è forse l'elemento che in questi anni si è visto cambiare in maniera più significativa, ma sulla qualità della ricerca direi che da questo punto di vista i ricercatori italiani non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelli stranieri. Manca certamente questa capacità e propensione all'imprenditorialità. Ok, ora pubblicità, torneremo tra poco. Eccoci tornati in studio. Allora, stavamo parlando con Trevisan, che dice ci manca ancora un po' di propensione all'imprenditorialità. Nella sua esperienza, come si può in qualche maniera fare in modo che questa propensione all'imprenditorialità, questa comprensione dell'imprenditorialità nell'ambito della ricerca universitaria si diffonda meglio? È una questione di ciò che è fuori l'università, dell'approccio medio-culturale che preesiste all'esperienza universitaria secondo lei, oppure ha a che vedere anche con qualche difficoltà di comunicazione, di poche iniziative dello stesso mondo dell'impresa associata? Da che cosa secondo lei nella sua esperienza nasce? Ma non è sicuramente facile dare una risposta a questa domanda, perché il problema credo sia un problema anche culturale, che probabilmente è un problema che cresce nel tempo, nella nostra stessa formazione. Infatti l'elemento di confronto è con i ricercatori dei paesi anglosassoni, americani in primis, ma questo vale per gli inglesi, insomma comunque la tradizione anglosassone spinge molto verso anche una forte sinergia, oltre che un aspetto culturale, una forte sinergia con diverse discipline. Discipline, ma anche al tempo stesso una visione verso il mondo imprenditoriale, cioè il mondo esterno, il mondo dell'azienda. Se i ricercatori avessero la possibilità di un confronto più serrato, più strutturato con il mondo esterno, probabilmente forse questa capacità, questa propensione potrebbe accrescere. Credo sia indispensabile assolutamente per far emergere una nuova classe imprenditoriale, anche a partire da ricerche scientifiche. Però è un percorso sicuramente non breve. Posso fare una domanda a Margherita Morpurgo? Nella sua esperienza, quando faceva ancora la ricercatrice e basta, per così dire, se dovesse immaginare oggi di dare un'opinione sulle polemiche che il ruolo dei ricercatori in università pubblica, quello che tutto il non detto intorno a questo punto, che fa molto arrabbiare i ricercatori quando io chiedo loro, insomma, ditelo, volete l'assunzione a tempo indeterminato? Lo dicono, ma che, vogliamo la selezione, il merito, noi vogliamo fare ricerca, non vogliamo diventare la terza fascia docente a tempo indeterminato. Però in realtà nel produrre buone ricerche scientifiche, una buona media di pubblicazione nelle riviste internazionali, nel produrre buone idee eccetera eccetera, nella sua esperienza comparata all'estero e in Italia, nella struttura universitaria italiana nella quale sviluppava la sua attività, che cosa ci manca per avere davvero attività di ricerca che non sia confusa con docenza a tutti gli effetti, travestita o anticamera della docenza per incamerare anni ed essere poi sistemati per tutta la vita nel posto pubblico? Scusi la domanda concreta, perché è uno dei punti su cui in realtà la contesa è più aperta, e quindi io uso termini, per così dire, un po' diretti. Questa è una domanda da $1 milioni. Ci sono tantissimi aspetti che contraddittori, persone diverse, ruoli diversi. L'università è un mondo dove si fanno tantissime cose. Non si può non dire che il ricercatore fa una valangata di didattica, perché non ci sono risorse per avere docenti sufficienti che facciano didattica. Quindi il ricercatore, che doveva avere un ruolo di ricercatore, in realtà oggi si trova a fare il didatta e poca ricerca. Non Nonostante ciò, il ricercatore italiano produce una marea di buona ricerca, di buone pubblicazioni. Ora, perché il ricercatore desidera il posto fisso, tra virgolette, perché poi in realtà è questo un po', no? Perché il ricercatore, non perché il posto fisso sia il, diciamo, l'obiettivo, ma in realtà perché il ricercatore oggi è sottopagato, non ha altre, una volta che è all'interno dell'università non ha alternative di carriera. Quindi a un certo punto si trova nella situazione in cui in realtà lui ha dedicato moltissimo del suo tempo, perché i ricercatori in Italia lavorano tantissimo, io glielo posso assicurare, probabilmente non lavorano in modo ottimale perché manca un'organizzazione è proprio un'organizzazione del tempo, ecco, in maniera. Cioè io mi ritrovo a fare dagli ordini ai preventivi, alla ricerca, a seguire, cioè veramente la quantità, alla didattica, eccetera. È molto complessa la cosa, ci vorrebbero più soldi e ci vorrebbe un'organizzazione migliore all'interno dell'università. C'è poco da dire. Noi non credo che siamo qualitativamente peggio, però sicuramente l'università italiana si sta peggio come qualità della vita rispetto all'estero. Manca secondo me queste opportunità di carriera al di fuori. Se io a un certo punto dico basta, non voglio più stare all'università perché mi sono stufata del mio scarso salario, delle mie condizioni di lavoro stressanti e multifunzionali eccetera, molto pochi hanno la possibilità di trovare un'alternativa oggettivamente. Questo è un po', non so se la risposta delle tue domande. No, certamente. Ovviamente, io preferirei un paese in cui tutto questo si parlasse numeri alla mano, con serenità, non con la gente sui tetti e con il rettore di Firenze. Io di fronte, devo dire la verità, la mia opinione, non voglio coinvolgere nessuno dei nostri ospiti di oggi, ma un rettore come quello di Firenze, Alberto Tesi, che dice no, oggi, nel giorno in cui c'è il voto finale della Camera, niente lezioni. Quando i rettori iniziano a dire niente lezioni, io mi chiedo davvero, un rettore per arrivare a cose simili dovrebbe vedere violate le regole fondamentali della Costituzione, solo così secondo me non si fa lezione e si dice ai professori e agli studenti di disertare le aule, però ci devono essere violazioni di leggi fondamentali civili, violazioni costituzionali, ci devono essere arresti di massa sui diritti politici, non lo so. Quindi io devo dire, sono molto perplesso sulle forme che oramai il dibattito pubblico italiano ha assunto su questi temi. Comunque torniamo, stiamo al punto sempre su cui siamo oggi, parlare di un'esperienza, questa di Nano a Padova, che è diventata da idee avanzate, imprese di tecnologie avanzate, che continua secondo me meritoriamente a quel punto con la collaborazione di banche, della Fondazione Cariparo, dei diversi soggetti, delle filiere dell'intermediazione finanziaria italiana, ad autoalimentarsi e ad alimentare buone idee di ricerca per farle diventare imprese. Questa è poi uno dei difetti di fondo della nostra struttura produttiva, che per classe dimensionale, con imprese troppo piccole, sottopatrimonializzate, che non hanno risorse per la ricerca, per l'innovazione, significa poi perdere il grande treno dell'innovazione. Le idee ci sono. Margherita Morpurgo ci dice come, malgrado tutto, l'università italiana, dove le risorse sono meno dei nostri paesi competitor, però insomma le idee ci sono. Il problema è trovare questa filiera di continuità che dalla buona idea possa immaginare poi di fare buona impresa, impresa che cresce. E abbiamo qua un altro buon esempio, secondo me un ottimo esempio, tra i migliori. Roberto Siagri è un fisico di formazione e il fondatore di Eurotech, che appunto è nata come startup in definitiva non troppi anni fa, è già diventata una multinazionale nei nano PC e nel salutarlo e ringraziarlo dico a Roberto Siagri: l'avrebbe mai immaginato prima che Eurotech diventasse impresa? Cioè quando ha capito ma questa diventa un'impresa e diventa anche un'impresa multinazionale? Buongiorno Danilo, buongiorno agli ascoltatori. Ma in realtà quando uno parte con un'impresa ha in realtà nel cassetto il sogno che questa cosa poi diventi qualche cosa di più grande e non rimanga una cosa piccola. Forse poi in Italia ci insegnano poco a sognare, e allora anche noi sul nome abbiamo scelto Eurotech all'inizio perché pensavamo che alla fine la nostra frontiera fosse l'Europa e non il mondo. In realtà per fortuna ci sbagliavamo e poi siamo riusciti ad arrivare a posizionarci un po' in tutti quanti i tra i più importanti continenti. E si parte in piccolo e si pensa in grande, questo è un po' la base del problema. E poi quando uno lavora un'azienda, lavora nel settore delle tecnologie, è gioco forza che debba pensare al mondo in maniera diversa, in maniera soprattutto globale. E lavorando duro e sodo, con un po' anche di fortuna, si arriva poi a fare una cosa come quella che è oggi Eurotech. Lei ha dell'idea che, come mi diceva un ascoltatore adesso, pregandomi di dirlo, dice, l'idea tra università e industria per fare funzionare poi semplicemente un telefono, basta chiamarsi per esperienze, parlo dell'università di Padova, Udine, Trieste, è probabile che nel nord-est forse funzioni così, ma nella sua esperienza in Italia funziona così? No, purtroppo ancora non funziona così, manca un vero raccordo tra quella che è la funzione dell'università nel circuito economico, cioè come motrice e motore dello sviluppo e del progresso, e che ha anche per missione, secondo me, non solo la ricerca in quanto tale, ma una ricerca che serva ad alimentare il futuro di una nazione, perché alla fine i ricercatori sono pagati con i soldi delle tasse, le tasse sono generate dalle imprese che riescono ad essere competitive e che riescono ad essere innovative, per cui bisognerebbe che fosse chiaro che i soldi con cui si paga la ricerca non piovono dal cielo, non è che ci sono eventi messianici tali per cui i soldi arrivano e poi devono essere dati all'università. I soldi arrivano perché il territorio ha imprese competitive, perché il territorio ha imprese innovative, le quali generano ricchezza per il paese e di conseguenza alimentano la ricerca. Non è tutto automatico, però devo dire che se si conosce il sistema si può anche cercare di migliorarlo, per cui anche lo sforzo che abbiamo fatto noi come impresa è di cercare un avvicinamento a quelle che erano poi i mondi dell'università della ricerca, per cercare di insieme di fare di costruire il futuro. È un percorso comunque lungo, non sono cose che si risolvono in pochi giorni, in pochi anni, però secondo me dovremmo tutti, imprese e università, sforzarci ad avvicinarci e non a creare muri, dovremmo cercare proprio di trovare un nuovo patto tra la funzione dell'università della ricerca all'interno dell'ecosistema paese e sviluppo del paese. Da questo punto di vista, le polemiche di questi giorni, questa maniera dell'università italiana, dell'impresa, di non riuscire troppo a dialogare e di additarsi anche i reciproci difetti, per così dire, da una parte di come vengono utilizzato questo 0,9% della ricerca pubblica, dall'altra i difetti fondamentali della nostra struttura di impresa, la rendono, per lo suo occhio internazionale, quanto pessimista e quanto realisticamente in grado di sperare davvero in discontinuità che ci facciano recuperare terreno? Ma guardi, io un po' per natura sono ottimista, per cui al di là che ogni tanto si può lasciare andare dal pessimismo, sono per definizione ottimista, e credo che tra l'altro non ci siano alternative, bisogna trovare una nuova strada per portare il paese dentro il futuro. E secondo me, se tutti ci alzassimo la mattina chiedendoci non tanto che cosa devono fare gli altri per noi, ma noi cosa possiamo fare per gli altri, probabilmente questi gap si colmano. Ma è solo un problema di attitudine mentale, di atteggiamento mentale. Capisco che le rivoluzioni culturali tante volte sono più difficili che non altri tipi di rivoluzione, però il paese, l'Italia, secondo me ce la può fare, io non vedo perché non ce la possa fare. Come posso dire, in realtà se lei va a analizzare cosa c'è dentro l'università, cosa c'è dentro i laboratori italiani, troverà che ci sono tantissime idee, ma che poi quello che si fa fatica è farle trasformare queste grandi idee in innovazioni. Altri paesi con idee molto meno potenti riescono a generare delle innovazioni molto potenti, allora che hanno, cioè, effetti sull'economia molto importanti. E allora bisognerebbe cominciare a pensare a un ruolo diverso del ricercatore e a un ruolo diverso anche dell'università all'interno del sistema economico. Io non ne nascondo che il concetto di un posto fisso non so cosa voglia dire, capisco che le garanzie fanno comodo, però in un mondo come quello di oggi, in cui ci sono le opportunità, bisogna perdere un po' di garanzie per guadagnare opportunità. Sono con lei, aspetti, mi consenta di dirlo, integralmente d'accordo. Questo è come dico che bisogna rinunciare ai voti dei dipendenti per prendere i voti dei contribuenti. Meno garanzie, più opportunità. Avete sentito Trevisan? Oggi saper stare nel mondo nuovo significa parlare ai propri figli, ai propri fratelli e sorelle, ai propri soci, se si è un'impresa. Secondo me questo questa lingua. Dice che faccio il predicatore? No, credo di vedere in cosa il difetto del nostro paese che produce bassa crescita, di che cosa è figlio, di un orizzonte culturale che cerca ancora certezze una volta per sempre nella vita. Per questo voi mandate, sbagliando la ricerca della facoltà universitaria, i vostri figli ad intasare per anni e anni posti di formazione che servono a vincere un concorso, e poi li renderete frustrati a vita, perché non capite che nel mondo nuovo, come ha detto Trevisan, secondo me giustamente, per questo l'ho interrotto, bisogna il trade-off, fare uno scambio, meno certezza una volta per tutte, più opportunità, sapere cavalcare, costruire, non farsi deludere, avere la testa dura, tirarsi sulla manica, sapere che non è vero che il merito vince sempre, che il mercato non serve a far vincere sempre il merito, che il merito è un moltiplicatore ma non è la certezza, che bisogna ritirarsi su, ritirarsi su, ritirarsi su. Questa è la vita per chi ha questa idea che l'innovazione è provare, provare, provare, ogni tanto riuscire, e chi riesce vuol dire che ha provato molto, non che è figlio di qualcuno o della logica del di che ti mando io. Informazione sulla circolazione stradale. Sentiamo rapidamente la telefonata di un ascoltatore, Antonio, che ci chiama da Firenze. Prego Antonio, qual è la sua esperienza? Buongiorno, senta, io sono un professore dell'università. Volevo dirle, Firenze ha messo su un sistema di preincubazione, incubazione dei progetti che vengono dai ricercatori dell'università. Nel sito dell'Università di Firenze si trova questo sito, si chiama Xavri, e funziona così: ci sono dei bandi semestrali a cui i ricercatori partecipano, se sono ammessi all'incubazione vengono seguiti da tutor di tipo economico manageriale che li aiutano a capire se le idee possono essere trasformate mettendo su una piccola, uno spin-off, e poi ci saranno bandi successivi che li permettono alle strutture e agli spin-off di inserirsi in una struttura apposta universitaria in cui vengono messe a disposizione strumentazioni o capacità di partecipare a progetti di finanziamento o punti di contatto con investitori, e in questo modo si selezionano le idee migliori e si spera che da un certo numero abbastanza grande di idee progettuali ne vengano fuori alcune che possono realmente avere la capacità di porsi sul mercato. E questo è più o meno, insomma, il modello dell'incubatore spin-off, un po' diffuso in tutte le università italiane. Nella sua esperienza a Firenze, cosa non funziona? Nel senso che potrebbe funzionare meglio? Non le chiedo una critica costruttiva. Dunque, la mentalità delle persone che arrivano, dei gruppi di ricerca che arrivano, è ancora una mentalità molto legata alla ricerca, immaginando che basta avere delle idee per poi trasformarle e si possa poi automaticamente mettere su un'impresa senza rendersi conto delle difficoltà, ecco, che ci sono intorno. Io sono molto... sono le difficoltà, cioè quello che poi l'altra cosa che posso dire è che lo Stato considera gli spin-off come se fossero le grandi industrie, cioè le regole sono le stesse. E questo è sbagliato, esattamente, esattamente, perché non è possibile immaginare già come già un'impresa, uno spin-off. Però io devo ammettere, nella mia esperienza così di chi da consulente di fondi partecipa a giuria, selezioni eccetera eccetera, che spesso il ricercatore che ha l'idea è troppo convinto che debba rimanere gelosamente appollaiato sulla sua idea, perché persuaso che possa essere lui la figura migliore che poi da quella fa un'impresa. Fare un'impresa in termini di strategie commerciali, di marketing, di immaginazione, di sviluppo della parte finanziaria, del circolante e così via, non significa affatto avere l'impresa. Né il titolare dell'idea coincide con le capacità di saper svolgere queste funzioni. Tant'è vero che le maggiori difficoltà, secondo me, si sviluppano proprio nella fase in cui c'è il tutoring, quando ci sono i business angels che devono prendere la guida del processo di trasformazione di una ottima idea, di una ottima discontinuità di prodotto, di processo, per farla diventare un'impresa vera. E lì di solito si litiga. Per questo il più delle startup e di spin-off universitari restano piccolissime cose nel nostro paese, e la difficoltà a farle crescere è assumere l'idea, che a quel punto chi ha l'idea non è per questo il manager che può fare l'impresa. È molto raro che le due persone coincidano. Volevo però chiudere con una rapidissima testimonianza, perché abbiamo con noi anche Alberto Buchberger, che oggi è amministratore unico di Alcosem, una società che si occupa di produzione e vendita di alimenti dietetici per celiaci. Ma in realtà io gli chiedo di darci una testimonianza, perché lui era un ricercatore pubblico, era un ricercatore che faceva un dottorato in metallurgia nel CNR, e poi a un certo punto ha preso lui la via dell'impresa mollandola lì. E perché l'ha mollata lì, Alberto? Buongiorno intanto a tutti e grazie dell'opportunità di condividere questa la mia esperienza. Io sono un intruso, come ha detto oggi in questa trasmissione, in quanto non direttamente coinvolto nelle nanotecnologie, ma ho avuto la fortuna negli ultimi anni di seguire gli eventi di Veneto Nanotech e mi ritengo un osservatore privilegiato. Come diceva, ormai troppi anni fa, io da neo laureato in ingegneria ho affrontato il dottorato di ricerca in collaborazione tra CNR e università, e con la speranza, le confesso, di entrare in contatto con l'industria e con le aziende, cosa che col senno di poi si è dimostrata assolutamente sbagliata. Cioè c'era, e perché non funzionava questa interazione? Perché, come ha detto Margherita Morpurgo, i ricercatori sono occupati in 100.000 cose. Io arrivai al CNR prima della riforma e c'era una divisione degli organici in chi cercava di creare ricerca e chi semplicemente stazionava in quelle strutture. C'era la ricerca fine a se stessa, c'era la ricerca per la pubblicazione, cosa che mi permetto di dire, io conosco l'Italia ma conosco qualche altro paese, so che in Italia si usa la pubblicazione multipla più mani, anche esatto. Se effettivamente bravo. Nessuno ci ha messo le mani. Bravo, bravo, perché questa è una delle modalità attraverso le quali poi ci riempiamo la bocca che noi pubblichiamo molto e si fa molto così, sono totalmente d'accordo con Alberto Buchberg, che ho fatto parlare troppo tardi, avrete capito, lui a un certo punto era prima della riforma del CER, quindi il presidente Maiani non richiama, mi non faccia richiamare, non sto parlando mai del CER di oggi per quanto sia molto critico. Detto questo, a un certo punto è diventato, poi si è buttato nell'impresa e l'impresa gli ha dato più soddisfazione. Nessuno potrà negare che oggi vi ho offerto uno spaccato di ciò che funziona in Italia, di una maniera di fare interagire ricerca universitaria, impresa sulle ricerche più avanzate e gli sviluppi che ancora nella elevata tecnologia mancano all'impresa italiana. Detto questo, nel frattempo gli spread dei titoli decennali italiani hanno toccato un nuovo record, oltre i 210 punti sul Bund. E voi pensate che i 27.000 assunti in Sicilia non facciano la differenza? Lo fanno, il mercato guarda, ascolta, giudica e punisce, e i politici questo non lo vogliono ammettere. Per questo hanno assunto in Sicilia in un solo giorno più di tutti i dipendenti della Fiat. Vergogna, quest'oggi non lo dico allo Stato, lo dico purtroppo a chi guida i comuni e le regioni siciliane. Vergognatevi! Date un occhio a quello spread, perché a pagarlo siete anche voi. A domani.